Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il 1809. Napoleone annette Roma, Pio VII lo scomunica, il Gazzettino del Risorgimento, un documento eccezionale. Ribellione antifrancese in Veneto e Tirolo e in Calabria, i filo borbonici occupano Reggio. L'imperatore divorzia dalla moglie, Giuseppina non è mai riuscita a dargli un erede. Muore un genio della musica, Joseph Haydn, a lui si deve l'invenzione del quartetto d'archi. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Era un gesto atteso da parte dell'imperatore, così come era quasi scontata la risposta del Papa. Dopo l'occupazione avvenuta appena un anno fa, Napoleone ha deciso di proclamare Roma città imperiale, coltivando il sogno di farne la seconda metropoli francese dopo Parigi. Ecco su questa vicenda un documento straordinario. Santità. Ho un compito molto sgradevole e penoso. In nome di Napoleone, io vi devo intimare di rinunciare alla sovranità di Roma e degli stati della Chiesa. Non possiamo, non dobbiamo, non vogliamo. In questo caso, ho l'ordine di condurre Sua Santità dal generale Miollì, che le indicherà il luogo della sua destinazione. Il pontefice ha deciso di scomunicare Bonaparte. La reazione di Parigi è consistita nell'arresto dello stesso Pio VII, il quale è stato deportato in Francia, dove lo aspetta una lunga detenzione. Intanto, da nord a sud dell'Italia vi sono segnali di ribellione. La lotta antifrancese dei Veneti si sta parzialmente saldando con quella dei tirolesi, mentre in Calabria i filo borbonici stanno continuando a dare filo da torcere al re Murat e ai suoi. Calabria e Tirolo, così distanti anche culturalmente, eppure uniti dallo stesso sentimento contrario all'occupazione francese. La popolazione tirolese sta combattendo strenuamente la sua battaglia, guidata da Andrea Sofer, che ha sconfitto le forze di Parigi e quelle bavaresi in due occasioni, per poi insediarsi a Innsbruck. Obiettivo di Hofer, il ritorno del Tirolo nelle mani dell'impero austriaco. Il ritorno dei Borbone è invece l'obiettivo delle rivolte in Calabria, grazie anche alla marina inglese, che continua a tenere occupate le forze del Reggio Achino Murat, un esercito di irregolari è arrivato fino a conquistare la città di Reggio. Francesi in difficoltà, dunque, mentre Murat ha dato il via libera a una serie di riforme. Ha introdotto il codice napoleonico con l'eccezione del divorzio, ha abolito gli ordini religiosi requisendone i beni, ha infine introdotto la leva obbligatoria. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Finisce una grande storia d'amore, con la sua fine rischiano di cambiare anche gli assetti geopolitici. L'imperatore Napoleone I e Giuseppina di Beauharnais divorziano. Alla base di questa scelta, accettata a malincuore da entrambi, pare vi sia l'incapacità di lei di dare eredi al Bonaparte. La dissoluzione del mio matrimonio non cambierà niente nei sentimenti del mio cuore, pare abbia detto Giuseppina. L'imperatore avrà sempre in me la sua migliore amica. E ora la musica. Quella che sentite è tratta da una delle opere per quartetto d'archi scritte da Joseph Haydn, che si è spento il 31 maggio di questo 1809. Era malato da molti anni, è stato uno dei punti di riferimento principali della musica di fine Settecento e senza dubbio il padre proprio della composizione per quartetto d'archi. È tutto, sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, potete visitare il nostro blog o la nostra pagina Facebook e lasciarci un commento o farlo prendendo penna e calamaio elettronici, l'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza. Una buona giornata.